solo stanze con la musica distante. Mi spingo a fari spenti ai confini della musica. Chiudo gli occhi e spero di riavere la mia anima. Notte insonni tra mille incubi mentali. Ultime note che stonano tra questi vecchi annali. Rimango in piedi sopra il ring come il Mancini italiano. Guardo attraverso i miei avversari ancora oltre e più lontano. Cerco la chiave di lettura tra le linee della mano. Questo è il punto in cui rimango sempre solo. Seguo ancora i miei passi tra pochi alti e molti bassi. Clono il codice di Scilla come unica speranza. Cerco un modo per passare oltre, per trovare le risposte, per scovare verità nascoste. Ora il sole non risplende più dentro la stanza. Devo fare i conti con la mia coscienza. Troppi sbagli e troppi errori, troppi suoni e pochi amici veri. Ma la musica è il mio mondo e devo rimanere in piedi. Stessi passati dentro un'altra realtà, tipo viale dei cipressi, sconnessi da ogni mia emozione. Tutti in fila ormai per una nuova clonazione. Anima in pena da una vita intera, solo legami con questa finta bandiera. Nascosti dietro il loro dito che li azzera, di un ginocchio tutti sotto preghiera. Scivolati sul fondo con questa pseudo carriera. Io non chiedo nessun tipo d'aiuto, voglio saltare il mio muro da solo, zero tributo. Per questo strano gioco fatto solo di ombre, per questo nuovo giorno fatto solo di stelle. Icone di un passato ormai andato, voci tra la folla, rimaste senza fiato. Ho speso sangue e lacrime, per questo ho ringhiato. 16 anni che difendo la mia scena e non mi sono mai fermato. Solo fari spenti, ora, solo qui mi muovo, ora, solo come sono ancora. Il sole non risplende sulla musica che nasce. Solo fari spenti, allora sono voci differenti. Sono e lo sono ancora, chiusi nelle loro stanze con la musica distante. Con la musica distante.